Il gastronauta di Davide Paolini. Bene, oggi parleremo di un argomento che credo possa interessare coloro che stanno per partire per le vacanze, perché parleremo di alberghi, di hotel. In modo particolare andremo a verificare qual è lo stato della cucina d'albergo e della prima colazione. Bene, io credo che negli ultimi anni ci sia stata una grande evoluzione, ma lo andremo a verificare. Per ora metteremo gli alberghi, diciamo, sul banco degli imputati, ma potrebbe anche darsi che a fine della trasmissione venga un verdetto di piena assoluzione, anzi, così, di grande ottimismo. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Quindi invito tutti i nostri radioascoltatori di intervenire, di dire la loro, come hanno mangiato in albergo, come mangiano in albergo, com'è la prima colazione. Insomma, intervenite per discutere di questo argomento. Noi cominciamo questo viaggio con un grande ristoratore, un grande patron chef di un ristorante che si chiama Paolo Teverini, ma Paolo Teverini non ha solo un grande ristorante, ha anche un albergo e pratica la mattina in questo albergo, che non è sicuramente 5 stelle lusso, una straordinaria prima colazione, sicuramente una forse delle migliori in assoluto in Italia. E allora buongiorno Paolo Teverini. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ti chiedo Paolo, ma quindi anche un piccolo albergo a Bagno di Romagna, quindi un piccolo centro termale, può fare una prima colazione di grandissimo livello. E ci sono investimenti grossi per fare questo, ma dà dei risultati la prima colazione? Ma sicuramente si può fare in qualsiasi luogo. L'importante è conoscere bene le proprie radici e avere tanta voglia di far piacere ai propri clienti. Grossi investimenti non servono, servono solo materie prime di grande qualità. Nella mia colazione non ci sono grossi investimenti e per non so, attrezzature particolari, ma solamente gli investimenti sono nella scelta dei prodotti. Non so, partendo da un culatello strepitoso ad una mortadella, tra virgolette, da favola, partendo da formaggi eccellenti per le fresche, per le colazioni, formaggi fatti anche in casa, come noi facciamo il nostro ravigiolo o il mascarpone, partendo con salumi eccezionali, salumi provenienti dalla Toscana piuttosto che dall'Emilia, dolci o salati, facendo lavorare il mio settore pasticceria e prepara tutte le mattine da 7 a 10 tipi di pasticceria diversa, da biscotti a torte, croissant eccetera. Scegliendo dando una scelta appropriata di pani diversi, facendo marmellate in casa, facendo succhi di frutta in casa, le colazioni poi diventano piacevoli. Quindi significa che con un po' di buona volontà, anche così, quei molti ristoranti che usano latte a lunga conservazione, succo d'arancio, pane che sicuramente quello affettato dentro i contenitori, brioche surgelate ed altro, sì, quindi diciamo che questo si può fare. Comunque rimani con noi Paolo, per poi continueremo il discorso. Andrea Grignaffini, abbiamo con noi Andrea Grignaffini. Grignaffini è sicuramente un grande esperto di vino e sicuramente anche di ristoranti, e a lui voglio chiedere: caro Andrea, tu che giri molto, ma le carte dei vini dei ristoranti, dei ristoranti d'albergo negli ultimi anni sono migliorate oppure sono rimaste un po' così fatte in mano a degli agenti distributori? Innanzitutto ciao Davide, buongiorno a tutti. Devo dire che mi ha fatto più venire appetito la colazione di Paolo rispetto alla tua. Invece qui, mentre c'è una, secondo me abbiamo assistito, come dicevi giustamente tu, a un bel dinamismo da parte della ristorazione per quanto riguarda la cucina, si comincia a vedere qualcosa anche nelle prime colazioni, che in realtà è un settore piuttosto problematico anche nei grandi alberghi. Ecco, per quanto riguarda, secondo me, le cantine dei grandi alberghi, è inutile citare delle eccezioni che secondo me confermano la regola, effettivamente è un po' statica, che probabilmente, comprensibilmente, perché magari c'è una clientela internazionale che vuole un po' dei must classici e quindi magari si nota un po' un déjà vu per noi un po' più curiosi, però effettivamente ci sono alcuni sospetti, ci sono insomma sul fatto che la reiterazione degli stessi nomi, pochi vitigni ancora autoctoni presenti, una scelta magari su non molto vasta, non molto ampia, non molto profonda, anche come annate. Insomma, secondo me qui c'è ancora molto molto da fare. Bene, grazie. Andrea Grignafini è responsabile di Spirito Divino, la rivista, quindi l'avevo omesso, ora l'ho detto. Grazie Andrea, a te, a presto. Sentiamo Egon da Padova, un radioascoltatore. Sì, buongiorno. Mi dica. Niente, io faccio il direttore d'hotel e in particolare mi sono specializzato nelle aperture degli hotel. In questo momento ne sto seguendo due di taglio molto diverso, uno completamente di vacanza all'estero, di intera internazionale, e uno tipicamente di città, di lavoro, e con molto lavoro settimanale. Entrambi ho la ristorazione. Secondo me, è una mia opinione dal punto di vista professionale, la qualità si può fare, concordo con quello che diceva e l'ascoltatore di prima che ha quell'hotel in Romagna, non servono grandi investimenti. E questo però spesso non si ritrova in giro, devo dire, come critica professionale anche da parte proprio del settore, girando, ed è una questione principalmente, secondo me, solo di selezione delle materie prime. Bene, grazie Egon da Padova. Sentiamo Agostino da Roma. Veloce Agostino, poco tempo. Velocissimo. Devo parlare dell'hotel Costa Dorada, Calagonone. Eccezionale per menù, carta di vini e soprattutto per il proprietario Maître, che sa 5 lingue alla perfezione. Bene. Una cosa fantastica. Grazie Agostino da Roma, spero che lei non sia il proprietario, a presto. No, io telefono, no, assolutamente no. Va bene, grazie, grazie Agostino, grazie anche a Paolo Teverini. Vi ricordo, numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Maria da Pistoia, buongiorno Maria. Niente, mi fa molto piacere che si sia arrivati a questo argomento. Io ho un piccolissimo di turismo, sono 8 posti letti, si può immaginare, ma le mie colazioni sono un successo. Si dividono in dolci e salate. Quelle salate i miei ospiti si piccano di chiamarle continentali, non so perché, di come sia partito questo discorso. Il dolce, io trovo ricotte locali, localissime, formaggini di capra, e marmellate che faccio io stessa e vanno benissimo, e più che altro faccio un pane casalingo fatto in casa proprio tutte le mattine, pane per la prima colazione. Bene, lei ha 7 camere, sicuramente questo è possibile, grazie. Certo, infatti, grazie, infatti. Grazie a Maria da Pistoia. Bene, ora abbiamo con noi il general manager di un importante albergo di Capri, il Capri Palace. Buongiorno a Ermanno Zanini. Buongiorno dottor Paolini, come sta? Bene, grazie. E Zanini, voi al Capri Palace avete fatto un grossissimo investimento e avete un ristorante 2 stelle. La domanda che le porgo questa è un po' così: questi ristoranti, il suo, cioè il famoso ristorante anche alla Pergola di Roma che ha 3 stelle, altri 2 stellati, ci sono tanti stellati, poi ne parleremo di questo con Fausto Righi che è il direttore della Michelin. Ma le voglio chiedere, ma ecco appunto, l'investimento è importante? Un ristorante 2 stelle molto così conformale come il vostro dà dei risultati in termini di ritorno o solo di immagine? No, dottor Paolini, sicuramente i margini di profittabilità su un ristorante diciamo d'albergo di grande qualità sono più bassi rispetto ad un ristorante che magari decide di fare semplicemente la pizza. Ma quindi la domanda è pertinente, la risposta è che in un albergo di lusso, in un albergo di qualità, un servizio di ristorazione è un servizio che diciamo integra tutti gli altri servizi e dà la possibilità all'albergo di offrire la camera, che poi è il core business dell'albergo, a prezzi naturalmente più alti rispetto a quelli che normalmente si possono applicare. Beh, rimanga con noi Zanini, perché ora rivolgo una domanda a Fausto Arrighi, responsabile della Michelin. Arrighi, è mia impressione o la cucina d'albergo negli ultimi 4-5 anni è veramente cresciuta in maniera importante? Ma innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, è cresciuta tantissimo. Tu pensa che il promotore è stato il famoso Fritz, direttore dell'Hotel Hilton a Roma, quando con la sua bella terrazza volle fare un discorso di alta ristorazione negli alberghi, quando negli alberghi la ristorazione era quasi sparita, perché era cambiato un po' il concetto tra una ristorazione d'albergo classica con un menù, una carta un po' stantia, verso una ristorazione nuova che era fatta di qualità e di grandi prodotti. In fondo, come la penso io, nel nella ristorazione d'albergo si deve puntare più sull'immagine che su un ritorno economico. Questo è uno degli aspetti che forse dà alla ristorazione d'albergo e allo chef che gestisce la cucina un respiro più ampio. Bene, rimani con noi Fausto, sì. Sentiamo Marco dalla provincia di Treviso, un radioascoltatore. Ciao Paolini, Marco Valletta. Buongiorno. Intanto oggi proprio abbiamo presentato nel gruppo del GP Hotel di Abano il sistema di colazione del benessere. Bisogna anche ricordare che non salumi, non formaggi, non prosciutti vanno bene a mattina. Bisogna educare la gente per la ricerca di un benessere attraverso frutta, ortaggi, no? Pani e lievito madre. Ed è fondamentale che ci sia un sistema di cultura dove il cliente va in albergo, impara il sistema alimentare e poi lo trasferisce a casa. Perché educare all'alimentazione parte proprio dalla prima colazione. Proprio oggi, in questi giorni, abbiamo fatto questo tipo di iniziativa interessante. Quindi la qualità dei prodotti sia relativa, ma occorre variare, occorre capire che a colazione è meglio mangiare frutta, verdura, ortaggi, non so, tutte quelle cose che abitualmente poi la gente a casa non fa. Sì, Marco, e questo è vero per l'Italia, ma ci sono ad esempio popoli come quelli nordici che sicuramente alla mattina vogliono mangiare il salato e fa parte, cioè, certo, della loro alimentazione, quindi non è che si possa imporre un certo tipo. Io credo che la varietà sia la cosa più importante, cioè di dare la possibilità al cliente di scegliere. Poi sono problemi suoi se vuole mangiare il salato o il dolce, rispetto anche ad abitudini che ha contratto nei paesi dove vive, anche in base alle temperature. Grazie Marco, senti, torno a Zanini. Zanini, volevo chiederle, la vostra clientela nell'albergo, nel ristorante d'albergo di Capri, è diciamo clientela esterna o più d'albergo? Beh, in questi anni, anche grazie, diciamo, alla grande visibilità che ha dato la guida Michelin, il numero degli ospiti che frequentano il ristorante L'Olivo in albergo dall'esterno è aumentato notevolmente. Potrei dire che ormai siamo al 60% di clienti che vengono dall'esterno e un 40% di clienti che vivono in albergo, che dormono in albergo e che decidono di cenare nel nostro ristorante principale. Bene, grazie Zanini, grazie. Sentiamo un radioascoltatore, ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Antonio dalla provincia di Roma, buongiorno Antonio. Buongiorno. Mi dica. Sì, si sente, prego. Parli. Allora io volevo dire questo, che vado ad Abano Terme per fare le cure termali e l'hotel dove vado io c'è una prima colazione stupenda, c'è di tutto, dai formaggi, mortadella, salumi e tante altre belle cose. Bene, io vedo. Solamente il primo giorno che arriva vedo tutto sto benessere, ma facciata è solamente quella che si accontenta subito. Bene, la ringrazio Antonio, vedo che le prime colazioni stanno riprendendo in questo paese. Io un paio di anni fa ho fatto una trasmissione proprio criticissima su questo argomento e ancora qualche dubbio, però voglio tornare a Fausto Arrighi. Arrighi, abbiamo parlato di, diciamo, top, abbiamo parlato di 5 stelle, ma voi che come Michelin battete veramente il marciapiede di tutti gli alberghi, le chiedo, e più in basso qual è la situazione? Ma più in basso è ancora un pochino tutto da ristrutturare, se così si può dire. Abbiamo ancora gli alberghi pensione, quindi menu fisso, una piccola scelta, una piccola carta che non è molto evidente e non attira una clientela esterna, che non sia appunto l'alloggiato che vuole mangiare qualcosa velocemente. Non è una cucina gourmand, se vogliamo. Bene, quindi ma è la prima colazione? La prima colazione in generale è cresciuta tantissimo, c'è sempre il solito problema che spesso e volentieri si beve del caffè veramente di bassa qualità. Per noi italiani il caffè al mattino è una cosa molto importante, prevalgono le macchine distributrici di prodotti, sì, certo, già più utilizzati, quindi diventa un po' una tristezza, ma per il resto sia sul dolce che sul salato è migliorata molto. Poi se si sale di categoria, certo, se si va al Capri Pals, la colazione è un'altra cosa, è un comparto completo. Grazie a Fausto Arrighi. Ora andiamo a Casamicciola, provincia, Isola d'Ischia, all'hotel Manzi Terme. Andiamo dalla proprietaria Maria Polito, perché questo, diciamo, albergo aperto da 3 anni, mi sembra riaperto da 3 anni, ha puntato moltissimo sulla ristorazione, ha un ristorante 2 stelle veramente eccezionale e una grandissima prima colazione. Volevo chiedere a Maria Polito se questa politica ha premiato l'albergo. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Sicuramente ci ha premiato tantissimo, abbiamo puntato tanto sulla gastronomia, sulla cucina e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati ottenuti in pochissimo tempo. E l'aver scelto di puntare su questa ristorazione ha portato visibilità, assoluta visibilità alla struttura, clientela di alta qualità e quindi ottimi risultati a livello nazionale e internazionale, quindi ha dato questa grande visibilità che ha dato alla struttura, ha fatto sì che poi incominciasse a risuonare in giro il nome del Terme Manzi. Ecco, quindi diciamo che voi, che poi siete ripartiti da zero, perché l'albergo è ripartito da zero. Assolutamente, cioè, l'abbiamo ristrutturato, 4 anni e mezzo di ristrutturazione circa, e quindi abbiamo dato vita al nuovo Manzi, un 5 stelle, e quindi lo stesso ristorante è nato dal nulla, l'abbiamo creato insieme al nostro chef e questo ha fatto sì. Uno chef che in pochissimo tempo ha raggiunto le 2 stelle, quindi molte volte paga chi riparte da zero puntare così in alto sulla grande ristorazione. Abbiamo puntato tantissimo, abbiamo investito tantissimo in risorse umane, quali lo chef, in altre risorse, però ha pagato. Insomma, lei dice costa molto, però alla fine ha portato grandi risultati. Grazie. Aver ottenuto 2 stelle in 18 mesi ha significato tanto per noi. Grazie a Maria Polito, Hotel Manzi Terme, Casamicciola Ischia. Sentiamo Maria Clotilde da Genova. Buongiorno Maria Clotilde. Buongiorno, io volevo ricordare che ho avuto la possibilità di fare un bellissimo viaggio in Sicilia e abbiamo, con un gruppo di amici, abbiamo mangiato sempre benissimo in tutti gli alberghi, ma al Park Hotel di Siracusa ci hanno dato tutto quanto congelato. Dopo aver attraversato le zone di Vittoria con tanto ortaggio, eccetera, la zuppa era congelata, il pesce era congelato, la carne era congelata, gli spinaci erano congelati, il dolce era congelato. E per tutti, e in tutti gli altri alberghi, questo compreso, al mattino mai una spremuta d'arancia, dopo che vedevamo mari di arance da tutte le sono parti. Guardi Maria Clotilde, sono contento di questa chiamata, perché anch'io voglio ricordare che a Catania, in un albergo 4 stelle, con nel cortile di questo albergo tanti aranci, e la mattina si beve succo d'arancia. Ecco, ma aspetto delle telefonate così di gente che anche dica cosa non funziona. Ricordo il numero verde 800 24 0024, messaggi SMS 349 238 6666. Alberto da Firenze, un radioascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo intervenire a proposito degli alberghi 4 stelle che hanno un servizio abbastanza scadente di colazione, di prima colazione. Ecco, posso dire di aver avuto una soddisfazione a Roma, non so se posso citare il nome dell'albergo. Lo faccio, ormai li abbiamo citati tutti. Perfetto, allora questo è l'Hotel Rex di Roma, che sta vicino al Teatro dell'Opera. Io sono stato cliente per motivi di lavoro per varie settimane e mi sono lamentato con la direzione del fatto che non ci fosse frutta fresca durante la prima colazione, non fosse fornita. E ho avuto la bella soddisfazione la settimana seguente di vedere frutta di ogni tipo fresca messa nella prima colazione. Bene, allora speriamo che ogni volta che uno si lamenta e chiede qualcosa, la settimana dopo ci sia. Grazie Alberto della sua esperienza. Bene, ora abbiamo con noi Fulvio Pierangelini, noto chef del Gambero Rosso, che da oltre un anno ormai fa il globetrotter della gastronomia, soprattutto si occupa anche di moltissimi alberghi. Allora a lui chiedo un po' lo stato dell'arte. Fulvio, ma si può fare una grande cucina negli alberghi tenendo anche conto degli investimenti, tenendo conto anche appunto del lavoro che può avere un ristorante d'albergo? Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì, direi che si può fare una grande cucina con compromessi ridotti veramente, veramente al minimo. Io è quello che sto cercando di fare in tutti gli alberghi nei quali lavoro, insomma. Cerco di di fare una cucina il più possibile intelligente e rispettosa, questo sì. Ecco, ma c'è differenza, cioè trovi differenza tra far cucina nei ristoranti d'albergo, specialmente ristoranti anche con un certo numero di camere, rispetto a una cucina tradizionale di ristorante? La prima cosa che dico entrando nelle cucine, appena faccio il mio ingresso in queste cucine nuove degli alberghi dove vado per la prima volta e dove trovo già uno chef, la prima cosa che dico è: ragazzi, voi state lavorando in un ristorante, questo è un ristorante, non è un ristorante d'albergo, io lavoro in un ristorante, e questo è il primo passaggio culturale che bisogna fare, e poi andiamo avanti. Rimani con noi, Fulvio. Paolo della provincia di Foggia. Sì, sono qui. Mi dica. Buongiorno. Niente, volevo segnalare, sono stato in vacanza a Genova, nei pressi dell'acquario di Genova, poi abbiamo deciso di andare a mangiare e c'è un ristorante, non so se posso fare il nome. Sì, ma stiamo parlando di ristoranti d'albergo? No, ristorante e basta. No, guardi, l'argomento è come si mangia. Ma lei era in albergo a Genova? Sì, in albergo sì. No, in albergo sono stato benissimo, però abbiamo deciso di andare a mangiare. No, io le voglio chiedere sull'albergo. La prima colazione com'era nell'albergo? No, era tutto buono. Tutto buono, bene, grazie a Paolo della provincia di Foggia. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, stiamo parlando d'alberghi, di prima colazione, di ristorazione d'albergo. E abbiamo con noi un giornalista che è stato per diversi anni direttore della Guida del Gambero Rosso e ora è direttore editoriale dello Slow Food, quindi ha battuto il marciapiede. E buongiorno a Marco Bolasco. Buongiorno a voi. Marco, a te chiedo, più che diciamo la grande ristorazione, perché tu hai cercato anche così di verificare poi quali sono gli alberghi, non sempre 5 stelle lusso, ma anche alberghi che non sono 5 stelle lusso. Ecco, come hai trovato negli ultimi anni la ristorazione? È cresciuta? È rimasta tale quale? La prima colazione, hai trovato dei cambiamenti? Dunque, intanto è bellissimo questo repertorio di esperienze, penso che siano utilissimi e sarebbe bello anche raccogliere, magari ci farei un'altra trasmissione. Io penso che sia cambiato tutto, nel senso che in qualche modo c'è un'evoluzione necessaria e oggi la cucina degli alberghi non è più una cucina standard, punto e basta, una cucina che deve mettere insieme dei criteri che definirei internazionali, ma molto spesso invece è una cucina che si trasforma in funzione delle esigenze del cliente, quindi può avere più carattere e generalmente questo carattere va nella direzione della semplicità, quindi per esempio anche all'interno degli alberghi si trovano menù che mettono dentro meno filetti, panna e fragole, più polli arrosto con patate. Da questo punto di vista ne ricordo anche uno meraviglioso, Fulvio Pierangelini, in un albergo. Quindi penso che la direzione del cambiamento sia quella, e dentro a questa direzione si può coniugare tranquillamente l'aspetto, come dire, del gusto con quello ovviamente anche delle necessità, perché quello che non va dimenticato, e io che viaggio molto lo vivo in prima persona, è che chi va in albergo comunque ha delle necessità diverse da quelle di chi va a un ristorante, motivato magari dal viaggio o dalla guida gastronomica. Ecco, leggo un SMS: l'espresso nei bar italiani e soprattutto negli alberghi è pessimo e la moka assente, noi dovremmo essere il paese del caffè. Vabbè, un altro che mi dice, appunto, torniamo alla domanda: perché nel 90% dei casi non si usa latte fresco? Trovo sempre a fronte anche di buone colazioni un imbecille che poi, vabbè, lasciamo perdere, mi fermo e torno a Fulvio Pierangelini. Fulvio, che cucina si può fare? Cioè, diciamo che un tempo gli alberghi erano il prototipo della cucina internazionale, lo sono stato fino agli anni 60-70. Oggi, diciamo, gli alberghi possono esprimere una loro cucina, un loro modo di fare cucina rispetto alla ristorazione tradizionale? Sicuramente, anche perché l'albergo non è più autosufficiente, nel senso che non riesce più a vivere, perlomeno è quello che io sto tentando di fare, con un pubblico dell'albergo, e quindi deve aprirsi alla città, deve aprirsi al paese e deve offrire cose diverse all'interno di una struttura che comunque è già molto ben organizzata, e quindi è quasi più facile, in quanto già esiste una struttura, rispetto a aprire un ristorante. E poi evidentemente guardarsi intorno e ripensare i prezzi, innanzitutto ripensare i prezzi dei vini, ricollocarsi su una ristorazione tradizionale e non con i prezzi assurdi che praticavano gli alberghi, che praticano gli alberghi. Sentiamo Michele da Milano. Buongiorno Michele. Buongiorno, sono Michele da Milano. Niente, io volevo segnalare, sono andato a Pasqua giù vicino Salerno, a Miori, un paese vicino a Miori, in un albergo. Ho fatto 5 giorni, in regola la colazione c'era tutta la, c'era frutta fresca e torte fatte da loro in casa, mi sono trovato benissimo. Ma scusi, lei oltre a questo albergo, immagino che nel passato oppure anche dopo è stato in altri alberghi, ha trovato lo stesso livello? No, no, no, in questo albergo veramente mi sono trovato bene, perché infatti c'era anche la frutta fresca e le torte fatte in casa da loro, non quelle confezionate. Ho capito. Beh, sai, io credo che la frutta fresca sarebbe un dovere, non credo che possa essere un'eccezione. Le torte fatte in casa si possono fare sicuramente alberghi a conduzione familiare. Comunque grazie Michele, voglio tornare a Marco Bolasco. Marco, torniamo, prima abbiamo parlato di cucina, andiamo ora alla prima colazione. Tu cosa ne pensi sulle prime colazioni degli alberghi? Anch'io, ahimè, sono tra quelli che soffre, perché purtroppo è vero, in un paese come il nostro in cui la semplicità è di casa, la prima colazione è mediamente un disastro, e se vogliamo dirlo, anche se è una banalità, però vale la pena ricordarlo, è particolarmente un disastro nelle strutture più organizzate, diciamo i cosiddetti alberghi di catena, magari appunto anche di un certo livello nelle grandi città, che non sono in grado o non vogliono molto spesso, pensando di risparmiare 4 soldi, perché davvero alla fine sono 4, offrire neanche una buona tazzina di caffè. Questa è una cosa abbastanza ridicola, e non c'è bisogno di fare chissà quali torte fatte in casa o mettere, come dicevi, della sacrosanta frutta fresca. Ci sono cose molto semplici, significa certo. Non servire una brioche qualsiasi e non dare un'aranciata liofilizzata allungata con l'acqua, perché io mi capita spesso di trovare queste cose qui. Insomma, la prima colazione è una di quelle cose su cui secondo me un buon albergo deve puntare, e se posso credo che su questo, una volta tanto, il sud batta un pochino il nord. Bene, sentiamo Alessandro da Bari, grazie. Pronto Alessandro? Ah, buongiorno, mi sente? Sì, la sento, prego, parli. Salve, sono un attento... Seguo con attenzione le sue trasmissioni, e non solo, e anche ciò che lei scrive sul Sole 24 Ore, l'inserto della domenica. E volevo portare una mia testimonianza. Quest'estate ho passato 10 giorni incantevoli a Marina di Chieuti, una località veramente selvaggia, a pochi chilometri da Termoli, forse 10 chilometri prima di Termoli. Sono stato in un albergo, pagavo 40 euro al giorno, pensione completa, dove la proprietaria del ristorante ogni mattina si recava a Termoli, faceva l'acquisto del pesce fresco e mangiavamo sia a pranzo che a cena con questi 40 euro pensione completa in maniera divina. E voglio fare un'ulteriore precisazione. Quando arrivai in albergo io volevo mangiare pesce, quindi chiesi al bar prima del pranzo, ero arrivato da 20 minuti, chiesi il luogo dove potevo io trovare del pesce, un ristorante dove potevo mangiare del pesce. E gli hanno detto di rimanere lì. Il luogo comune era che negli alberghi non si mangia bene. Grazie Alessandro della sua testimonianza. Voglio tornare per un'ultima battuta con Fulvio Pierangelini. Fulvio, volevo chiederti questo, ma sicuramente un ristorante d'albergo può permettersi di variare spesso come fa un ristorante tradizionale il menù? Ma veramente, io adesso sono in questa magica sciacca, sono in Sicilia, sono in questo golfo, sentivo parlare, noi abbiamo le arance, abbiamo le fragoline di Ribera, abbiamo 1000 prodotti, 1000 emozioni, e io prima di entrare in cucina sono stato mesi a girare per capire, e adesso tutto questo l'ho riportato dalla piccola colazione fino all'ultima cioccolata, e tu capisci quale, di Sicilia, che ho messo come sì, buonanotte sì. E qui c'è l'obbligo anche ancora di più di variare, perché le persone quando amano questa cucina, la tua cucina, rimangono e hanno necessità di variare, quindi più che mai dobbiamo cambiare, secondo me fin troppo, perché poi ci sono dei classici, però chi rimane, normalmente in albergo si mangia una notte su 5, E qui invece abbiamo oltre il 90% di persone dell'albergo che mangiano, quindi vuol dire che, certo, che adorano quello che noi facciamo e siamo obbligati a cambiarlo. Ma qui è una magia, qui è una magia. I blu assoluti di questo mare non li ho mai visti, Davide. Bene, grazie a Fulvio, a presto Fulvio, e grazie a Marco Bolasco, a presto anche con lui. Alberto dalla provincia di Monza, Brianza, prego Alberto. Buongiorno dottor Paolini. Allora, io e la moglie ci spostiamo un po' per lavoro, un po' per piacere, e vediamo diversi alberghi, diversi hotel. Segnalo, se possibile, sul lago di Garda, la sponda velonese, ottima qualità. Nello specifico a Garda, ad esempio, la Regina Adelaide, un'ottima prima colazione e menù alla carta che varia tutti bene. I giorni. Alberto, lei non è un azionista di questo albergo. No, è un'azienda di autotrasporto. Scherzo. Ci muoviamo tantissimo. Scherzo, è una battuta la mia. No, le potrei fare altri 100 nomi parlando bene, ma questo è particolare. Piccola pasticceria interna tutti i giorni, ottimi yogurt. Confermo che manca ogni tanto le spremute, però su Garda magari è un po' difficile. Certo. Grazie. Sentiamo Fulvio da Torino. Buongiorno Fulvio. Buongiorno Davide, buongiorno. Veloce perché ho poco tempo. Sì, anch'io sono un viaggiatore per business, soprattutto per business, e conosco decine e decine di hotel in tutta Italia e non solo. Comunque la qualità della colazione, l'ultima esperienza che ho avuto a Venezia questa settimana in un hotel 5 stelle sulla Giudecca, non faccio il nome ma è facilmente identificabile, chiedere una spremuta d'arancia si viene guardati con occhi o si fa pagare extra o si fa pagare un pesante extra, certo, come è capitato a me a Arezzo, un caffè espresso che me l'hanno fatto pagare extra. Grazie a lei. Ora abbiamo con noi un consulente alberghiero che ha costruito molti alberghi alla progettazione, Harry Charles Mills Show. Buongiorno Harry. Buongiorno Davide ed ascoltatori. Bene, io volevo chiederti se quando si parte su così la progettazione, il rinnovo di un albergo, quanto incide, diciamo, quanto è in questo progetto il valore che si dà alla ristorazione? Beh, io credo che la cosa importante è ricordare il posizionamento dell'albergo, perciò se ci rivolgiamo verso una clientela individuale abbiamo un albergo che avrà ovviamente una forte connotazione di food and beverage e di ristorazione rivolto verso un cliente individuale. All'inverso, un albergo che è strutturato per accogliere un tipologia di cliente business, riunioni e quant'altro, avrà una cucina un po' per individuali ma fortemente per la banchettistica, le riunioni e quant'altro. Ecco, tu ti sei occupato anni fa del Pellicano, se non erro, che è un ristorante che ha, cioè un albergo che ha un ristorante 2 stelle. Noi oggi, l'albergo sì, oggi ha 2 stelle e ha passato ovviamente la crescita, diciamo, professionale ed esperienza del cliente negli anni, sicuramente grazie alla passione della proprietà verso questo settore, che ovviamente che il cliente mangia bene, perché noi vediamo negli alberghi che, specialmente in un esempio tipo il Pellicano, che il cliente oggi individuale vuole, come abbiamo ascoltato negli ultimi 50 minuti delle telefonate, interventi vari, che il punto food nell'esperienza alberghiera oggi è molto molto più importante di quello che si pensava una volta. Certo. Cioè, credo che negli ultimi 20 anni in Italia si è un po' tornati quello che era forse la filosofia degli alberghi di 100 anni fa, se pensiamo ai grandi alberghi nel mondo, il Ritz e quant'altro. Cioè oggi il cliente non va a un albergo come il Pellicano o al Palace di Capri, eccetera, se sa già che non si mangia benissimo, perché ovviamente fa parte della sua aspettativa. Da un punto di vista della proprietà, ovviamente il food and beverage, la ristorazione, incide, come sappiamo io e te e noi tecnici, non tantissimo da un punto di vista né di fatturato né di guadagni, però a mio avviso oggi è come dire, è il minimo che deve essere un'esperienza, certo, eccezionale e di grande qualità. Ci vuole, insomma, ci vuole per l'immagine e per tutto il resto, ma anche per un servizio. Secondo me è un po' come dire, è un servizio, come tu hai una spa e un albergo che rivolge sempre verso una clientela individuale di grande qualità, il cliente si aspetta. Noi abbiamo visto con alberghi come il Pellicano e altri che si rivolgono in quel target che avere prodotti del territorio, avere professionalità attraverso le risorse umane, lo chef piuttosto il food and beverage, che riescono a esprimere la territorialità e attraverso le esperienze che vive il cliente, non solo il bere, il mangiare, eccetera, complimenta poi il fatto che è un albergo bellissimo, arredato, stupendo, all'ultimo grido, quello che sia. Bene, grazie Ari, rimani con noi. Ora sentiamo anche Michil Costa. Michil Costa è diciamo il suo noto albergo dell'Alta Badia, però lui voglio chiedere un po' anche perché rappresenta molto questo territorio. L'Alta Badia in fondo ha puntato la diciamo l'hotellerie dell'Alta Badia sul cibo, sulle prime colazioni. E quali sono stati i risultati, Michil? Ma i risultati sono stati ottimi e non potevano essere diversamente. Si tratta in fondo di fare un turismo intelligente, di fare una cucina ovviamente che sia non solo buona, ma che sia sostenibile, che sia onesta, che evochi i tempi passati e i luoghi d'appartenenza. Questo facciamo, io faccio l'host nella mia vita e tento di farlo benino. Ecco, in, diciamo, in stazioni sciistiche come quella di dove è Michil, su in Alta Badia, di solito il cliente mangia spesso nel ristorante dell'albergo, nell'albergo, non è come magari in città o in luoghi di villeggiatura diversi, al mare per esempio. Sì, l'ospite mangia molto spesso negli alberghi, ma ultimamente mangia anche molto spesso nei rifugi. Dall'anno passato abbiamo dato via a un'iniziativa che ha avuto molto successo, si chiama In Vetta con Gusto, e quindi gli stellati Michelin del Sud Tirolo Alto Adige proponevano un piatto dei loro ristoranti nei rifugi dell'Alta Badia, quindi in tutti i rifugi c'era la possibilità di mangiare un piatto molto molto buono. Sentiamo Stefania della provincia di Varese, buongiorno Stefania. Sì, buongiorno Tartanini. Ascolti, solo questo, io viaggio spesso per lavoro, quindi mi ritrovo a dover scegliere gli hotel. Uno dei criteri importanti per me è anche quello della prima colazione. Cerco di individuare appunto quelle catene che seguono e curano un attimo di più questa parte, questo aspetto. E nulla, spesso e volentieri ci sono catene importanti, internazionali, che non sono assolutamente all'altezza. Mentre invece appunto altre, come ad esempio la catena del Melia, che assolutamente è all'altezza e ha fatto della colazione un punto di forza. Ma guardi, ho ricevuto molti SMS in proposito, diciamo che la gente parla più di prime colazioni che di ristorazione d'albergo, visto anche dagli SMS qui ci sono pareri molto discordanti, c'è chi attacca le catene e dice che non la curano, chi invece altri dicono che è molto curata, però la prima colazione mi sembra che sia un po', come posso dire, l'argomento che interessa di più di solito il viaggiatore, che interessa di più il frequentatore d'albergo, perché probabilmente non mangia sempre in albergo, quindi credo che questo sia un punto basilare, ma io che ho sempre detto che l'Alta Badia su questa è stata sempre grande maestra, gli alberghi a cominciare da quelli di Michil Costa e gli altri hanno curato in maniera straordinaria la prima colazione, quasi trasformandolo in un pranzo, quindi credo che in molte parti d'Italia si sia risposto molto positivamente, così pure nei grandi alberghi che hanno ristoranti importanti, ormai la pasticceria è fatta sicuramente dalla pasticceria del ristorante, quindi il livello sicuramente è cresciuto. Io diciamo che non ho più tempo, peccato, perché ci sarebbe da parlarne ancora per ore, sia con i nostri ospiti, sia con le tante telefonate e gli SMS che arrivano, però qui devo chiudere perché magari potremo tornare su questo argomento dopo le vacanze per sentire quali sono stati i risultati di molti che hanno frequentato gli alberghi. Io vi saluto, vi do appuntamento domani con Riposo del Guerriero, ogni giorno con la pillola alle 11.05 e la replica alle 23.05. Vi auguro a tutti un buon weekend e magari anche una buona permanenza in albergo con un'ottima colazione.